Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radionina è sempre sintonizzata su 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, essendo giovedì pomeriggio in tall'aria c'è Attica Blues. Allora, oggi, come avevamo preannunciato la settimana scorsa, abbiamo un gradito ospite che è venuto a trovarci. Eh sì, è che ospite, possiamo dire uno dei personaggi più, io direi, poliedrici e versatili, insomma, della, diciamo, della musica, ma non solo, perché parliamo di un giornalista, di un critico, autore, coautore, fotografo, musicista, fondamenta al suo basso, e che probabilmente riconoscerete anche dalla sua voce. Parliamo di Valerio Corsani. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ben trovati, molto contento di essere qua. Ibrido comunque è un bellissimo aggettivo. Allora, autore e conduttore di svariate trasmissioni radiofoniche, quella a cui sei più affezionato? Ah, non è semplice. Ma verrebbe da dire, guarda, una cosa veramente vintage, che è stata poi la prima trasmissione che ho fatto in Rai, che si intitolava Gli strumenti inconsueti del jazz moderno, e che era in realtà un titolo un po' ampolloso, molto così legato alla Rai di allora, però allo stesso tempo era una scusa per trovare musicisti jazz che avevano suonato cose stranissime. C'era tutto l'etno jazz, Yusef Latif, Tony Scott, tutta la ricerca etnica fatta dai jazzisti. E non so, non se la ricorderà nessuno, ma insomma per me è stato così il primo passo in Rai, e quindi me lo ricordo con affetto. Allora, Valerio, veramente non sapevo dove iniziare col farti domande, e forse inizierei, visto che il primo brano che hai portato in scaletta è di Hugh Masekela, un personaggio, insomma, un trombettista africano meraviglioso, dalla tua mostra anche fotografica Black People in a White World, presentata tra l'altro lo scorso Torino Jazz Festival. Sì, e non soltanto lì, per fortuna ha avuto già 4 allestimenti. Abbiamo fatto la prima a Roma, poi a Trieste, al Knulp, un bellissimo club, poi appunto nei giorni del Torino Jazz Festival, e poi l'ho portata in Romagna, al Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, ma soprattutto so già che tra luglio e agosto verrà allestita di nuovo a Bari, all'interno del Bari Jazz Festival, perché chiaramente che si adatta molto bene a un palinsesto di quel tipo, trattandosi di ritratti di black people in giro per il mondo. Devo dire che uno dei protagonisti è proprio Hugh Masekela, perché c'è una foto che lo ritrae in cui lui si sta facendo delle vasche in piscina. La piscina è una piscina di Oristano, dove si stava per esibire al Dromos Festival, diciamo 4-5 anni fa. E io ho fatto in quel caso proprio il paparazzo, perché sono arrivato in hotel, ho visto questo signore che stava nuotando e l'ho riconosciuto, ho cominciato a scattare a più non posso, perché era una cosa che aveva anche dal punto di vista dei colori, delle sfumature molto belle. Poi mi sentivo in colpa, per cui la sera sono andato dalla manager e gli ho detto: guarda, io ho fatto queste foto, però magari facciamogliele vedere, se gli sembrano poco rispettose o così le cancello oppure non le uso. E gliele ha fatte vedere, gli sono piaciute tantissimo invece quelle foto, quindi io mi sono ripreso, e addirittura parlava di farci la copertina di un disco. Insomma, quello non è, anche perché poi dopo poco è scomparso purtroppo, però è rimasta, insomma, questo ricordo legato a un musicista che anche in quel caso mise in scena uno spettacolo meraviglioso, giocato tutto sulle dinamiche, cioè sui forti e i pieni, che nella musica non sempre vengono considerate, no? C'è sempre diciamo un diagramma, uno spettro piuttosto monografico, e in questo caso invece lui come dire, riuscì anche da così molto anziano a pilotare il suo gruppo in questo ondeggiamento di dinamiche. Ha non ha sempre fatto dei dischi meravigliosi. C'è stato un periodo in cui si era buttato sulla fusion, sulla cose più commerciali. Le cose che arrivano dagli anni 70, come quelle che vi ho portato, sono quelle migliori. Tra l'altro è un disco registrato in parte a New York e in parte in Nigeria, a Lagos, ed è un vero e proprio omaggio all'Afrobeat di Fela Kuti, quindi tutto torna, insomma. Allora andiamoci ad ascoltare la tune che ci hai selezionato, è The Boys Doing It. The boys doing it. The boys doing it. The boy is doing it. What? The boy is doing it. Right. The boy is doing it. The boy is doing it. The boy is doing it. The boy is doing it. The boy is doing it. Allora Valerio, fra le varie cose diciamo anche che sei un musicista e anche qui però insomma versatile, perché sono diversissimi anche gli artisti con cui hai suonato, diciamo intanto hai iniziato, sì. No, hai iniziato però insomma sei stato il bassista dei Mau Mau, un gruppo storico degli anni 90, 2000? Eh sì, degli anni 90, 90, abbiamo iniziato ai primissimi anni 90 e io ho attraversato con loro le stagioni più trionfali, ma trionfali dal mio punto di vista, soprattutto dal punto di vista dei viaggi, nel senso che abbiamo perlustrato l'Italia e l'Europa con quel progetto, perché a un certo punto la EMI decise di puntare su di noi anche in Europa, quindi siamo finiti in classifica in due o tre nazioni europee, tra cui l'Olanda, cosa che ovviamente è sempre piacevole. E quindi finiva, c'era anche questa strana cosa per cui, non so, finivamo a Groningen e arrivava gente che cantava i nostri testi a memoria, ma erano in piemontese. Esatto. Che non li capivo nemmeno io, che sono romagnolo, per cui vabbè, cose strane ma molto divertenti, sì. E poi vedo comunque collaborazioni con tantissimi jazzisti, e vabbè, sì. Ok, Maria Piedevito, Gabriele Mirabassi, vabbè, sono tanti. Giorgio Licalzi. In realtà io ho un grande rispetto per il jazz e quindi non lo suono, prendo molto spesso dei jazzisti per collaborare a progetti particolari. Giorgio Licalzi ha suonato nel disco degli Interiors, Maria Pia Di Vito e Gabriele Mirabassi hanno partecipato insieme a me a un progetto che abbiamo fatto su John Cage, perché poi io su Cage mi sono laureato. Per cui, insomma, e quindi insomma spesso capita che, come si sa, i jazzisti sono i più versatili e spesso anche i più aperti e sono perfetti per essere coinvolti. Anche Mauro Campobasso, grande chitarrista, insomma sono tanti, sì. Però leggo anche un personaggio come Marc Ribot. Marc Ribot, vabbè, quella è una storia d'amore proprio. È strano che non l'ho portato, ma avevate detto black, quindi mi sono tenuto abbastanza rigorosamente anche dal punto di vista dei pigmenti, ecco. Però Marc Ribot sa essere anche nero, no? Secondo me sì, poi. È stato un postizos, poi, come si dice, un cubano. E no, sì, Marc Ribot, guarda, era ancora una situazione analogica totalmente. Per ingaggiarlo gli abbiamo spedito una busta con una cassetta dei Mazzapegul, che era il gruppo che ho fatto subito dopo i Mau Mau, con una letterina con scritto ci piacerebbe se potesse registrare, e poi è andata a finire a New York a questo indirizzo che mi aveva mandato un manager europeo, ma non eravamo sicuri di niente perché non era come ora, stiamo parlando del 96. E in realtà un mese e mezzo dopo mi squilla il telefono e mi dice hi, I am Marc Ribot, e poi comincia a dire che era interessato, che sarebbe venuto, e infatti è venuto, è stata una settimana, 10 giorni con noi, sia a registrare il disco dei Mazzapegul sia a fare 5-6 date insieme al gruppo, perché eravamo riusciti a far coincidere la cosa. E vi assicuro che suonare con lui mi ha cambiato la vita, nel senso che veramente capisci cosa vuol dire ricevere una sberla sul palco, ma nel senso buono, che quando lui partiva arrabbiato per una solo, era come veramente mettere una Ferrari a palla, ti costringeva a mettere la quinta, diciamo così, e quindi è una cosa meravigliosa, cioè quello è veramente forse la coccarda più grande che ho, di quelle da esporre. E poi c'è anche un tuo progetto Caracas, che invece, però forse ne parleremo dopo. Ne parleremo, sì, ho portato qualcosa. Senti, intanto ci hai portato un brano tradizionale? Sì, questa è veramente una cosa un po' strana, perché arriva dalla Colombia e fa parte del folklore colombiano, ma è di matrice nerissima, perché arriva da San Basilio de Palenque, un posto che io ho visitato, che è patrimonio dell'UNESCO, ma dopo esserci andato uno si potrebbe chiedere ma perché è patrimonio dell'UNESCO, perché in realtà è un paesello anche abbastanza così in disarmo dal punto di vista, non c'è nessuna cosa da andare a vedere, ma in realtà il capolavoro di quel paesello è la gente stessa. Perché quello era il punto di approdo in mezzo alla selva colombiana degli schiavi che riuscivano a fuggire da Cartagena de Indias. E quindi si sono creati sostanzialmente una comunità che era tutto sommato comunque meticcia, perché erano africani ma di varie parti dell'Africa, e ovviamente c'erano molte differenze tra un africano nigeriano che arrivava dalla Nigeria e uno che arrivava dalla Namibia. Però avevano questo filo rosso di essere legati dalla voglia della libertà e dal non voler stare sotto il giogo della schiavitù. Hanno quindi mantenuto molto forte la loro cultura, che era comunque una cultura plurale da quel punto di vista. Si sono dovuti, per forza di cose, perché non potevano spostarsi da lì, anche accoppiare tra loro, per cui infatti se voi andate là sono molto neri, molto più neri dei colombiani uh-huh. tipici, è una sfumatura di nero molto africana quella che vedi lì, e hanno tra le varie cose creato anche questa meravigliosa cultura che è a San Basilio de Palenque, che è fatta sul schema responsoriale che è tipico di molti canti blues ma anche africani, cioè call and response, i cori eccetera, che sono ben rappresentati da questo tradizionale che vi ho portato. Allora ce l'andiamo ad ascoltare, Adios Mujer. Entristecida, bailando también. Adiós, mujer, un piano te traigo. Traigo el alma entristecida, bailando también. Traigo el alma entristecida. Yeah. Fantastico, ci hai portato in Sud America, veramente ci hai fatto fare un viaggio. Per arrivare in questo posto siamo dovuti andare con la guardia armata, ma non perché loro fossero minacciosi, tutt'altro, anzi sono stati molto accoglienti gli abitanti di San Basilio de Palenque, ma perché, come sapete, in Colombia c'è il discorso del narcotraffico e la selva era pericolosa per quello, quindi insomma c'è stata anche questa piccola protesi avventurosa, diciamo così, per arrivarci. Senti, ci stai facendo fare un viaggio per il mondo, per paesi lontani, per paesi che fanno sognare. Adesso ci porti in Francia, ma in una Francia particolare. Eh sì, afro-indiana, perché stiamo proprio in mezzo all'oceano indiano, è un'isoletta non troppo conosciuta, si chiama l'isola della Réunion, dove, che era stata colonia francese, è diventata Francia a tutti gli effetti, dove però ovviamente diciamo le decisioni politiche non riescono a fermare i venti né di quelli del suono né quelli delle culture, dei traffici eccetera, e quindi lì si è creato appunto una cultura ibrida come dicevi tu prima, meravigliosa, perché c'è veramente nella loro musica l'influenza perfino quella europea di matrice francese, ma c'è soprattutto l'Africa, l'Arabia e l'India che si compongono in un modo molto particolare. Le due matrici stilistiche di riferimento sono due, diciamo, stili che si chiamano il Segà e il Maloya, molto percussivi, anche qui di nuovo call and response eccetera eccetera, però in realtà quella è una cultura di riferimento che però poi si è evoluta. Infatti il pezzo che vi ho portato arriva da un musicista che si chiama Alex, che fa anche un po' il rapper, o comunque è molto influenzato anche dai ritmi della Giamaica, dal reggae eccetera, e che però mantiene soprattutto dal punto di vista del trattamento delle voci invece un legame con quella che è questa cultura meticcia, ma che veramente molto molto black. Allora ci andiamo a ascoltare questo Ampar Zepol, che è in creolo, tra l'altro, che è in creolo. Si l'a besoin plairé en pas épaule, si l'y connaît pis à l'île, monte à l'île la voix. Grâce pas l'île, ton l'air dégoûté quand tu es sera molle. Sera tu va plaire avant gala. Si l'île a besoin plairé en pas épaule, si l'y connaît pis à l'île, monte à l'île la voix. Grâce pas l'iton l'air dégoûté quand tu sera molle. Sera tu va plaire avant gala. Ouais. Donc il chante le au moins 5h matin. Depuis le plat point et monte, mal a fait le train. Il dort sous béton, tout l'air dans le rein. Il reste sous le pont, fait longtemps de monde, n'a plus l'air avec moi, hein. Le rodin a fait pour bouffer, la fin il donne galop. Mi veille c'est rasé, mais mon main il tremble trop. Et m'a besoin le rhum, mais en fout de la tombe. M'a besoin un femme, ma c'est un zombie. M'y oublie, ma c'est le zombie. M'y laisse mon corps dans le canal, il tombe. Mon cerveau il fonde, pour aller l'école, mon seul maman il zone. Papa li wa papa dans l'état là. Avec un tralé saché, son tristesse en l'étalage, eh. M'y veut pas l'ina pitié, m'y veut pas l'ina honte. M'y connaît ton tas, il faudra m'y affronter. Faudra m'y dialer vraiment, quoi que la passer. Impossible pour l'instant expliquer, il faut m'y refaire. Il n'avait 16 mois. Ce moment là-bas, avec un trou de qui, un moment la paix est toute. Mon fil a éteint, j'ose de la partie. Le soleil l'a pâli. M'y bois pour 10, bois beau dans le coco. Il fait pète mon esprit en guette. Pour des bouts de dieu qui tonnent sur le dos. À part isolé, si un îlot aux antimilés. Eh. Encore un soleil rapproche à ma la fin. Un déni de tyran, allez même les pompes au moins. Si il a besoin plairé en pas épaule, si l'y connaît pis à l'île, monte à l'île la voix. Grâce pas l'île, ton l'air dégoûté quand tu sera molle. Sera tu va plaire avant gala. Si il a besoin plairé en pas épaule, si l'y connaît pis à l'île, monte à l'île la voix. Grâce pas l'île, ton l'air dégoûté quand tu sera molle. Sera tu va plaire en gala. Ces enfants ont duré, mais les finois à toutes. Tantôt l'envie ou à bondier, passe par mon tête. Manger les rouges, les dents de brouille à la rac. Ces ans à peine, ils sentent déjà la vie, c'est un l'arnaque. Monde pas moins, ça il est, papa, maman. Ça y est, filme à la vie, comme elle était 10 enfants, eh. Banal à mettre à main, si t'es là. Crie à Zot, ils entendent pas. Il a le corps, et ou à pas. Et puis, pas avec ça, Zot, j'y m'y bâche, tu sais. De toute façon, on a plus personne pour garder mon carnet, avec ça. Bonne prof, tout en moins que je te conseille. Cette réalité, que la mienne n'est pas pareille, alors. Mais défonce mon col, est tellement mieux à m'aller. J'ai un autre décor, c'est moi, il décide, ça que t'es à là. Mon vie, les verts, les secs, les flammes. Dans une charrette, bon matin, avec Marie-Jeanne. L'avenir, au moins, c'est prochain soleil. Encore un jeune à l'école, d'un chemin avec un bouteille. Encore un soir, mais ça bataille avec nouveau gars, la vieille. Repis à cause, mon pied, c'est de la ferraille. Faut pas mettre mon con faiblesse, faut plus m'y faire. Allora, Valerio ci ha portato una playlist che comunque racconta anche dei viaggi e in dei posti in cui sei stato. E il prossimo, insomma, per me è uno dei geni del Novecento, parliamo di Lee Perry. Tu non sei stato in Giamaica, no. Però sei stato in un posto caro alla comunità rasta, diciamo. Sì, sono stato in Etiopia e in particolare sono stato a Sashamane, che è questo posto che viene in qualche modo evocato anche dal pezzo che stiamo per ascoltare, perché si intitola Sense Lassie. E proprio Selassie a un certo punto, forse anche lusingato dal fatto che, dal piccolo particolare che in Giamaica veniva considerato il Messia, quindi un dio, e che l'avevano accolto come un dio nel suo viaggio, a un certo punto mise a disposizione qualche ettaro, parecchi ettari di una porzione di Etiopia, per tutti i caraibici, in particolare i giamaicani, che comunque i rastafari, che volevano. Dico comunque rastafari perché poi alla fine ci sono andati anche dei rastafari inglesi, italiani, italiani esatto. Sì. E Sashamane ci sono stato proprio per vedere che succede. E innanzitutto la cosa particolare è che veramente quella piccola parte di Giamaica lì assomiglia un po' alla Giamaica. Quella piccola parte di Etiopia assomiglia alla Giamaica, nel senso che c'ha le colline abbastanza rigogliose, c'è uno scenario proprio geografico che è simile un po' al posto dove è nato Bob Marley, per intendersi, anche per i nostri ascoltatori magari. Fanno riferimento all'inizio del documentario su Bob Marley, in cui c'è il suo paese, ecco, assomiglia a quel posto. E l'altra cosa che si nota quando vai in Etiopia è che veramente questa musica, il reggae, è entrato nel DNA di quella nazione. È stata una specie di andata e ritorno di omaggi, di febbri, di amori che si sono reciproche, un flirt vero e proprio che alla fine fa sì che appunto i rastafari sono tantissimi anche in Etiopia, che se spippoli un po' con la radio trovi tantissimi pezzi reggae, che ci sono anche molti musicisti reggae etiopi. In questo caso però a guidare le danze appunto è Lee Scratch Perry, che dicevamo fuori onda, in realtà adesso ha scelto la Svizzera, sì. Ma insomma lui per molto tempo si è diviso tra la Giamaica e l'Inghilterra. E qui a questo punto ci dovremmo tutti mettere in ginocchio, secondo me, perché veramente per chi ama questa musica, la musica black in genere, ma soprattutto chi ha a che fare con i mixer, deve tributare omaggi continui, perché lui ha trasformato il mixer in uno strumento musicale. Adesso è una banalità dire questo, no? All'epoca quando lo faceva lui era una novità assoluta, e invece lui l'ha resa assolutamente credibile. E allora l'hai annunciato tu, ci andiamo ad ascoltare questo Sense Lassie. Seven churches. Churches come. And churches go. Many come and many go, but here Selassie remain. Chant, dance, King of Kings. Jump, jump, the Ring of Rings. Wave a hand, Lord of Lords. Wave a hand to the Lord of Lords. Wave a hand to the King of Kings. You Selassie in Japan. You Selassie in Hong Kong. You Selassie in Tokyo. Teocracy, tic-tac-toe. You Selassie in Tokyo. You Selassie, tic-tac-toe. You Selassie Japan. Teocracy, Jesus Christ, King of Kings, Jesus and the cross. Yes, the Lassie and the horse, Lord of Lords. Yes, the Lassie and the horse, the King of the Kings, Jesus in, King of Kings, born the River Jordan. Jesus in, King Selassie, down in Egypt. Theocracy, get his hand, Lord of Lords, in Israel, in Jerusalem, cross the Red Sea, in Israel, and say to Dead Sea, in Egypt, to Dead Sea, in Mount Moriah. You know who I am? In Mount Moriah, conquering lion, in Japan, conquering Zion, in Hong Kong, conquering. Allora lo 06 49 17 50 si illumina d'immenso. Trillino Easy che te la rimetto punta e da capo. Lì Scratch Perry. Seven churches. Churches come and churches go. Many come and many go, but here Selassie remain. Chant, dance, King of Kings, jump, jump, the Ring of Rings, wave a hand, Lord of Lords, wave a hand, to the Lord of Lords, wave a hand, to the King of Kings, Selassie, in Japan, Selassie, in Hong Kong, Selassie, in Tokyo, Theocracy, tic-tac-toe, Selassie, in Tokyo, Selassie, tic-tac-toe, Selassie, Japan, Theocracy, Jesus Christ, King of Kings, Jesus and the cross. Yes, the Lassie and the horse, Lord of Lords. Yes, the Lassie and the horse, the King of the Kings, Jesus in, King of Kings, from the River Jordan. Jesus in, King Selassie, down in Egypt. Theocracy, Jesus in, Lord of Lords, in Israel, in Jerusalem, cross the Red Sea, in Israel, and say to Dead Sea, in Egypt, to Dead Sea, in Mount Moriah. You know who I am? In Mount Moriah, conquering lion, in Japan, conquering Zion, in Hong Kong, conquering lion, in Tokyo, conquering Zion, tic-tac-toe, conquering iron, in Tokyo, conquering iron, tic-tac-toe, conquering Lord, Japan. Chapman, rise again and be my friend. Rise again and be my yen. Rise again. E allora Valerio, passiamo alla tua attività di musicista, va? Sì. Quella che ti caratterizza al basso. Ma in realtà sì, qui nel prossimo pezzo suono il basso e però ne approfitto per restare in qualche modo in Etiopia, perché in Etiopia dicevo sono andato a seguire il Natale copto, che in realtà corrisponde alla nostra Befana e in particolare alla Libella. Nel nord ci sono queste celebrazioni meravigliose perché è una sorta di processione da tutte le parti dell'Etiopia in questi posti dove ci sono le chiese rupestri e dove vengono per 4-5 giorni, si canta e si prega notte e giorno, quindi è veramente un benefico sabba, diciamo, da questo punto di vista. Dico, rimanendo a quelle parti, perché il pezzo dei Caracas, che è il progetto tutto in levare che ho messo su insieme a Stefano Saletti, che portiamo avanti insieme, è in realtà, questo pezzo si intitola Febbre Amarica perché è appunto cantato in amarico, che è la lingua che si parla comunemente in Etiopia, ed è cantato da Saba Anglana, che ha origine appunto etiope somala e in realtà sta in Italia da tanto tempo e ce l'ha cantata, quindi insomma con un piede rimaniamo ancora a Sasha Mane. Allora ci andiamo ad ascoltare Caracas Amharic Fever. Zuma, Zuma, ow, ow. ow, ow. Machar agar ika o afle nafle ama lo queda con tu manayo kulelka o rahda hadanayo hoyo o rahda jalesi hoyo o rahda jalesi Kaspiay kawut to tutush limited yen yen good word yen yen biko for 50 yen lit at the no biam berber kuin ku bahar fikir sama sama ow ow sama sama Dage dut yo machar agar Ilka o afle nafle amal O gera kuduma na yo Kulelka o rahta hada na yo Hoyo o rahta ija ale si Hoyo o rahta ija ale si contaminato e molto bello pure cantato in amarico, sì. Una voce molto morbida. Sì, Saba c'ha questa veramente capacità di rendere ritmica una lingua e allo stesso tempo di renderla molto melodica, come segnalavi tu. Vi volevo segnalare anche il fatto che noi in realtà con i Caracas abbiamo fatto un giochino dal punto di vista delle uscite che è un po' l'inverso di quello che si fa in Giamaica storicamente. Prima viene fatto il pezzo normale con la voce e tutto, diciamo così, e poi invece i maestri del dub si occupano di rendere ossea quella cosa, cominciano a togliere, ad aggiungere echi, riverberi, eccetera. Noi diciamo abbiamo fatto il contrario, perché abbiamo fatto prima il disco dub sostanzialmente tutto strumentale. E poi a quegli stessi pezzi abbiamo chiesto a tanti cantanti diversi, da Saba Anglana, Luca Morino, a Badara Sek, insomma tanta gente, di metterci la loro voce, anche con molta libertà. Quindi hanno in realtà ricreato e ricomposto delle canzoni sostanzialmente. Senti, invece il prossimo brano è di un altro tuo progetto. Sì, è un duo in realtà, si chiama Interiors, in questo caso lo guidiamo io e Erika Scherla, che è una violinista. Io in questo caso stropiccio molto, anche molta elettronica, Erika suona anche le tastiere. E ho portato però questo Limelight Blues, per stare diciamo ligio alle vostre indicazioni di portare musica nera, fedeli alla linea, esatto. Ma che ovviamente sono stato molto contento di farlo. Qui però c'è proprio il campionamento di una voce nera e per quello sostanzialmente l'abbiamo intitolato Limelight Blues. È una voce nera che si lamenta, allo stesso tempo dà una cadenza ritmica che noi seguiamo. Ogni tanto noi siamo un pochino più atmosferici, un po' ambient con questo progetto, però ogni tanto poi la parte ritmica ci prende la mano ed è questo il caso. Allora ci andiamo ad ascoltare gli Interiors, Limelight Blues. The name of the brother to blame is quite plain, it's not the rain, but a brother who don't claim or aim to be a preacher or ordained. I have black thoughts, therefore my name is ain't no question. My ability and a studio facility, as I utilize my God-given utility. On top, I get behind and push along a rhyme of mine, which I design with what the mind. They'll see flying with damn media, chopping in the salad, and my name ain't Caesar. Think twice before you approach. Get best by the coach like Agent Post. I wrote murder, so you can say it's murder. You vote, you see I'm out there, so you repent to the post. Don't walk when the sign says not to. And don't talk when black folks about you. When I say my story, folks start to play it. If you got a rhyme in your mind, then don't say it. Save it for the weaker, back and forth with speaker. And utilize the church, you can see the thing is all the backer. Forget about rapping, didn't you ever call me if it just ever happened? Cause you might have nightmares of the street being slain. And I'll be the flame if you go insane. Valerio, io anche sfruttando insomma il tuo punto di vista diciamo privilegiato, ti volevo chiedere in che momento culturale siamo, sia musicalmente che non. Anche fuori onda parlavamo per esempio del reggae. Il reggae forse si è un po' fermato in quanto evoluzione musicale, e anche sì. Noi insomma quando facciamo le puntate ci focalizziamo spesso sugli anni 60, 70, anche 80. Sì, questo è un problema, cioè da una parte bisogna evitare l'effetto i bei tempi andati, no? Dall'altra è veramente innegabile il fatto che ci sono dei fiumi che si sono arenati. Speriamo che siano semplicemente diventati carsici, cioè stanno fluendo sottoterra delle cose che piano piano fioriranno. Ci sono state anche negli anni, diciamo, del terzo millennio delle invenzioni molto interessanti, penso al dubstep ad esempio, che è una cosa che insomma dal punto di vista sonoro, anche della grammatica musicale, sia legata al rap che all'elettronica da club, diciamo così, ha detto delle cose molto importanti, però non sono tantissime. E quello che forse è successo ora è molto questo, cioè il fatto che ci sono magari delle cose molto interessanti ma non sono più incordata, sono dei piccoli genietti che lavorano da soli e che da questo punto di vista non riescono a essere così, diciamo, avere lo stesso impatto come quando c'era, non so, la psichedelia dei Grateful Dead, che aveva intorno però altri 50 gruppi che facevano la stessa cosa. Adesso c'è un po' meno, allo stesso tempo è anche vero che si sono aperte delle possibilità che mai e poi mai. Io prima vi raccontavo del fatto che abbiamo dovuto spedire una busta con la cassettina Marc Ribot. Ecco, adesso con due colpi di mouse in teoria puoi chiedere un featuring a un musicista australiano e lui il giorno dopo te lo può mandare suonato col didgeridoo o con la tastiera o semplicemente col mixer, ma insomma te la può mandare. E questa colleganza, diciamo così, generalizzata, in realtà è un'occasione meravigliosa di cui molti approfittano e che non bisogna mai dare per scontato, perché effettivamente da questo punto di vista sono tempi molto fertili. Quello che dico sempre è un po' triste è il fatto che appunto ora con un diciamo poco impegno puoi collaborare con un musicista australiano, ma è difficile che un gruppo di Roma suoni a Genova. Cioè è diventato più difficile girare noi non solo con i Mau Mau che giravamo tantissimo ovunque, ma anche con i Mazzapegul, un altro gruppo che ho fatto negli anni 90, che era un gruppo diciamo mediamente conosciuto, ma insomma non è che fosse famosissimo, però vivevamo tranquillamente girando per concerti in tutto lo stivale. Adesso veramente farsi un tour in Sicilia diventa un impegno gravosissimo, nel senso che o lo fai prendendola come gitarella in cui comunque non tiri fuori, ma ho detto Sicilia ma potevo dire Val d'Aosta, è uguale, nel senso che i cachet, soprattutto quelli dei club, sono diventati indegni, gli spazi sono diminuiti e finisce quindi che i romani suonano a Roma, i modenesi a Modena e i palermitani a Palermo, e questo sì che è un po' rattrappisce anche forse la fertilità degli scambi eccetera. Detto questo, pensiamo positivo, insomma, nel senso magari invece c'è qualcosa che sta covando e noi cerchiamo, io cerco, e questo è il nostro lavoro, esatto. Soprattutto, no? Di intercettare le cose buone. Io tutte le volte che le trovo, ecco, me ne viene in mente una che non è assolutamente black, ma insomma ve la consiglio, sono sicuro che vi piace anche a voi. Loro arrivano dall'Ucraina, si chiamano Daka Braka. Sono un gruppo meraviglioso, sono tre ragazze e un maschietto, e fanno una musica anche lì che non la puoi definire perché c'è musica etnica, però hanno fatto anche dei rap, usano l'elettronica ma sono in realtà di formazione accademica. E quella è una cosa che io ho intercettato a Salonico in un festival eccetera, e poi per fortuna ogni tanto è arrivata anche in Italia, ma non quanto vorrei, che non vedo l'ora sempre di passare in radio, perché sono sicuro che ad esempio loro hanno trovato un modo di declinare la cultura vocale anche tradizionale dell'Est Europa in un modo molto moderno, molto attuale, nuovo, rinnovato, che è quello che cerchiamo in teoria di tutte le matrici. Ci è piaciuta tanto, anche se dopo un po' ci ha rotto le scatole, la rivisitazione che è stata fatta della pizzica in Salento, no? Per sì, un attimo è stata una sbronza meravigliosa, sì. Poi ovviamente come tutte le cose che si esagera un po', e anche lì sono andati forse un po' in loop, no? Nel senso che le cose nuove anche da lì non arrivano più troppo, però ecco, quando si trova una cosa in cui la matrice nobile viene rinnovata e viene fatta parlare con il linguaggio appunto del 3.0, è il momento in cui si può festeggiare, e questo può succedere a tutte le latitudini, perfino in Africa appunto. Dove ci stai per portare in questo viaggio meraviglioso che ci stai facendo fare? Qui vi ci porto volentieri anche con un po' diciamo di groppo in gola, perché purtroppo quello è un posto dove adesso è pericoloso andare, mentre io sono stato forse veramente uno degli ultimi europei ad andarci a cuor leggero, perché era nel febbraio del 2012 e nel marzo del 2012 è successo il Bailam in Mali. Stiamo parlando del Mali. Dove a un certo punto all'inizio si sono hanno sostanzialmente iniziato a rivoltarsi, a fare una rivolta anche identitaria e anche giusta, i Tuareg, che stanno soprattutto al nord. Purtroppo in quella rivolta si sono accodati subito gli islamisti e per un attimo i Tuareg non hanno capito che era un pericolo ancora maggiore per la loro diciamo sopravvivenza, anche dal punto di vista culturale. Se pensate che Tuareg vuol dire senza Dio, sì, in lingua Tamashek, e che si erano alleati con dei fanatici religiosi, era un po' strana. Loro hanno poi fatto marcia indietro, ma là la situazione continua a essere micidiale. Io vi ho portato i Tammy Crest, che sono uno dei tanti gruppi del cosiddetto Desert Blues, e cioè questa matrice appunto di musica Tuareg influenzata anche dal rock, dal blues, musica molto molto bella. Ma il bello del Mali è che appunto ha una serie di, diciamo, identità musicali variegate. Basta farsi un giro lungo il fiume Niger, partendo da Bamako e salendo fino a Timbuktu, appunto, dove ad esempio adesso non si può quasi più andare perché è molto pericoloso, e attraversi identità sonore una più bella dell'altra. Allora ci ascoltiamo i Tammy Crest, questa è la loro Taramanine. Yeah. dunque sta diventando questo viaggio intorno al mondo. Siamo partiti dal Sud America, adesso in Africa. Ma tra l'altro tu hai scritto anche un libro sui tuoi viaggi. Sì. Sei giovedì, siamo in Olanda. Già questo. È un libro del secondo millennio. Ok. È uscito così, credo, a fine anni 90. Però sì, effettivamente era un diario di viaggio non troppo focalizzato sulle gesta delle band in cui suonavo, quanto sui posti e sugli odori, sui profumi, sui suoni che trovavo. Una domanda: i posti li scegli in base anche alla musica? Soprattutto. Ok. C'è sempre la scusa di un festival. Ecco. Poi in realtà spesso prolungo la permanenza perché il posto è bello. Addirittura delle volte, quando non è proprio chiaramente un festival musicale, come è stato ad esempio nel gennaio scorso, sono andato in Rajasthan e c'era un festival del cammello. Con gare dei cammelli, gare anche di decorazione del pelo del cammello, però la sera poi c'erano i concerti. Ecco, quindi la scusa c'era. Sì, sì, sì. E tra l'altro vi consiglio anche la pagina Instagram di Valerio, perché ci sono delle foto veramente meravigliose. Grazie. Meravigliose, andate a vedere. Sì, fate un salto e lì, appunto, a proposito di latitudini, se ne attraversano tante. Bellissima, veramente bellissima. Si passa da San Lorenzo a San Francisco, diciamo. No, sì, in quelli. Tra l'altro in quel libro lì, Se giovedì siamo in Olanda, che è uscito per la EDT, c'è anche la storia di una cosa abbastanza di cui adesso ci ripenso mi vergogno molto, però poi ancora una volta un po' mi commuove, perché racconto di come in Francia a un certo punto avevo cominciato a prendere questa abitudine piuttosto pericolosa, cioè di rubacchiare qualche CD dalle Fnac. E perché così, insomma, mi sembrava semplice e ovviamente tipo ne compravo 7 e ne rubavo 2, una roba del genere. Ovviamente, come tutti i ladri abbastanza così incapaci, mi beccarono a un certo punto e mi beccarono, e io ero veramente così, già mi vedevo con arrestato, sì, sì. Gli articoli poi sul Resto del Carlino, cioè il giornale certo. Che mia mamma leggeva, che diceva oddio, oddio mio. Invece per fortuna mi hanno solo fatto pagare la refurtiva. Ma ecco, quello che mi ricollega a quello che stiamo per passare è il fatto che in quel caso, quando mi hanno beccato, i due dischi che avevo prelevato erano uno di Tom Waits e uno di Cesare Evora, che erano due cotte musicali di allora. Poi a Cesare Evora mi è capitato di incontrarla una volta per un'intervista, e io questa cosa gliel'ho raccontata, che in teoria poteva essere pericoloso pure quello, perché lei è nota per è sempre stata nota, adesso non c'è più, ma per essere abbastanza, insomma, ruvida. E invece questa cosa gli piacque moltissimo, mi regolò una collana addirittura dopo che gli ho detto che avevo rischiato la prigione per rubare la sua musica, e era contentissima. E in realtà forse avrà capito che i dischi suoi andavano a ruba. Esatto, esatto. In quel periodo era un po' così in Francia, perché lei proprio dalla Francia ha iniziato il suo successo planetario. E è un posto, anche a casa di Cesare io ci sono andato, nel senso che a Capoverde sono già andato un paio di volte, l'ultima anche l'anno scorso, che mi piace tantissimo, perché è un po' come la Réunion, è un arcipelago in mezzo all'oceano, e quindi inevitabilmente viene attraversata dalle influenze di una sponda e dell'altra. Sì. E questa musica qua, la musica di Capoverde, ha proprio questo tipo di caratteristiche. Ora quella che sentiamo arriva dagli anni 70 addirittura, ma sembra molto moderna tutto sommato, perché avevano appena scoperto l'elettronica, quei gruppi lì. Quindi c'è ancora una volta la tradizione capoverdiana, quindi Morna, Coladeira, Tabanca, che sono gli stili di quelle parti, ma stropicciate con i sintetizzatori e cose di questo tipo, quindi ne viene fuori ancora una volta una cosa molto meticcia. Allora ci ascoltiamo Dionisio Maio da Diaia Mance. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Senti, allora Valerio, siamo giunti in chiusura di questa puntata di Attica Blues, ci rimane lo spazio per un'ultima traccia. Sì. Io però c'ho una domanda. Sì. È inevitabile a questo punto. I tuoi progetti futuri sia radiofonici che di viaggi? Ma guarda, quelli radiofonici già lunedì prossimo sono in onda come sempre a Radio 3 all'Idealista. E per quanto riguarda cose fatte fuori dai confini, diciamo così, c'è una trasmissione che conduco insieme a Sergio Albertoni, si chiama Babilonia, va in onda sulla Radio Svizzera Italiana ed è una trasmissione nomade, nel senso che la facciamo in varie città italiane per cercare di accaparrarci ospiti musicali di tutti i tipi, di tutte, insomma, le regioni. E per quanto riguarda i viaggi, in progetto ci sarebbe proprio la Réunion, perché c'è un festival a fine maggio che si chiama Sakifu e che è proprio dedicato a quelle culture che vi dicevo prima, la Sega e la Maloya, quindi tornerò nell'Oceano Indiano se questo malefico virus ce lo permette, non fa altri sconquassi, ma speriamo di no. E questo è quanto. Poi ovviamente dal punto di vista musicale non ci si ferma mai, nel senso che rispetto ai discorsi che avevamo detto prima devi essere sempre a disposizione, nel senso che siamo sempre pronti ad andare a suonare. Adesso l'ultima cosa che abbiamo fatto è stata la sonorizzazione con una specie di succursale di Interiors che si chiama Shuttle, che è un gruppo, un trio in cui si aggiunge un musicista sassofonista di Perugia, Gianfranco De Franco. Abbiamo sonorizzato dal vivo un film bellissimo a cartoni animati che si intitola Il pianeta selvaggio, che poteva essere anche un po' il sottotitolo di tutta la trasmissione di oggi. Senti, allora l'ultimo brano che ci hai portato in scaletta, vuoi dirci qualche cosa? Beh, è Benjamin Zefangia, che è un grande maestro dello spoken word. Lui è di origini caraibiche, però insomma è inglese a tutti gli effetti. E lo spoken word non è come il rap, è una cosa un pochino più poetica, nel senso che la cadenza ritmica conta, ma conta anche il significato dei testi. In questo senso lui è un maestro. Questo pezzo segnala quanto appunto questa immobilità di evoluzione di cui dicevamo prima nel suo caso non c'è, perché lui usa tutte le opportunità che l'elettronica gli dà e allo stesso tempo fa sentire quanto sia parte della corteccia, della radice, eccetera eccetera, ma si sente che i suoni sono anche nuovi e la sua attitudine è anche lirica, il suo modo di esporre le cose è molto moderna, molto contemporanea. Allora Valerio, grazie di esserci venuto a trovare. Grazie a voi, un piacere. E ci lasciamo con questo Touch. When I see you I know life is made for living. When I see you I know I don't want to die. When I don't see you I sleep and dream about you. It's the truth I'm telling you, poets don't lie. Sometimes I think I can't survive without you. I wanna introduce you to my crew. Sometimes I think I wanna give it all up. Everything, well, everything but you. When I see you, I know life is about sharing. When I see you, I know why the cage bird sings. When I see you, I know why it is I'm caring about love and life and every living thing. And now that we are in this space together, and the party people have all come and gone, I really want this time to last forever. So I'm asking you to keep your clothing on. Yeah, I wanna touch your body. Yeah, I wanna touch your body. Allora, vi ricordo che se vi state sintonizzando solamente adesso sulle frequenze di Radio Onda Rossa, potete riascoltare il podcast di questa trasmissione con ospite Valerio Corsani, come di tutte quante le altre trasmissioni di Attica Blues, sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. I feel a loving touch when I get close to you. It's intelligence that I really admire. E nel darvi appuntamento a giovedì prossimo, vi ricordiamo anche le nostre pagine social. Attica Blues la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram, e anche la nostra speciale playlist su Spotify, ovviamente ricca di musica nera. Valerio, anche tu hai delle pagine che vuoi segnalarci, le tue pagine? Ma guarda, quella che ci segnalavate prima su Instagram sicuramente è, diciamo, il mio portfolio fotografico. E poi ci sono le pagine sia su Bandcamp che su, insomma, gli altri siti di questo tipo, sia di Interiors che di Caracas. Anche su Spotify c'è la nostra musica, quindi se magari vi ha incuriosito andate lì che ne ascoltate dell'altra. E ci sono tutti i 4 i dischi che ho fatto con questi due gruppi. Chica.